e denari. E siamo arrivati alla fine di questa settimana di Cuore e Denari, tutta dedicata alle emozioni, alle relazioni, dove abbiamo fatto tanti incontri, ci siamo interrogati su molte questioni, più o meno serie della vita. In studio con me anche oggi Alberto Pellai, medico psicoterapeuta, scrittore, compagno di ombrellone, ma anche direi compagno di viaggio in questo percorso. Alberto, intanto ciao e buongiorno ai nostri ascoltatori. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Ma mi era partita un po' la testa in questo percorso, dicevo, tra emozioni e sentimenti, possiamo dire così, perché abbiamo toccato queste due dimensioni. Sì, un percorso dentro alla nostra vita e poi credo anche un'occasione per trasformare questo tempo più rilassato, più lento, più tranquillo in una possibilità di riflessione su noi, sugli altri e su... Ti viene già un po' di nostalgia? Siamo alla fine, insomma, so. È stato viene bello. Anche un po' di nostalgia quando finiscono le vacanze, ma noi ma ci noi saremo. Ne ancora. Allora, anche oggi insieme ad Alberto vi faremo incontrare molti personaggi che sono certa vi piaceranno, o ci auguriamo vi piaceranno. Vi faremo anche rifletteremo insieme su alcune questioni che prima o poi ci possono riguardare nella vita, Alberto, perché sì, ci sono delle cose che tornano. E in particolare oggi poi avremo proprio due temi che secondo me in un modo o nell'altro riguardano molte delle nostre esistenze. O uno o l'altro dei due casi che affronteremo di sicuro si incrociano col nostro percorso di vita. Ecco, intanto che mi sta lacrimando un occhio, io volevo ringraziare davvero tutte le persone che nel corso dell'anno ci hanno scritto a Cuore Denari, non solo per mettersi in contatto con i nostri esperti e quindi per chiedere delle consulenze di denari oppure anche di cuore inteso come salute, ma proprio ci hanno un po' aperto il cuore. Se non fosse stato per questo, queste lettere, queste mail, queste richieste di aiuto e di condivisione, forse Alberto, il nostro soggiorno sotto l'ombrellone sarebbe stato meno piacevole quest'anno. Sì, credo che abbiamo portato dentro alla nostra settimana e dentro ai nostri pensieri davvero delle storie di vita, e poi questo è proprio un po' la radio, no? La vita alla radio secondo me può essere raccontata, pensata, approfondita. Allora, intanto vi faccio sentire il tema che ci viene proposto dalla lettera di Ilaria, che abbiamo già avvertito e che ringrazio per averci scritto, che ci propone un tema direi un po' spinoso. Non riesco a capire cosa gli uomini cerchino in una donna. È forse questo il mio problema. Sono carina, colta, ho un buon lavoro. Tra l'altro cucino anche molto bene. Ma questo agli uomini sembra non bastare. Sono appena stata scaricata dal mio ultimo fidanzato, con cui sono stata insieme quasi 2 anni. Il motivo della rottura? Le vacanze. Lui è uno super attivo. Io, almeno in vacanza, mi vorrei riposare e fermare. Per lavoro, infatti, devo viaggiare tantissimo. All'inizio queste nostre differenze si integravano bene. Nei primi mesi della nostra storia il compromesso era stato: un weekend lo decido io, uno tu. Così si alternavano fine settimana in beauty farm con altre su una ciclabile a fianco di un fiume. Poi però abbiamo cominciato ad avere qualche malumore, fino alla crisi di questa estate. Io volevo un resort in Sardegna. Lui pensava ad un giro dell'Olanda in bicicletta. Risultato? Ognuno andrà per la sua strada, da solo. E io, per l'ennesima volta a 35 anni, devo ripartire da zero in amore. Troverò mai l'uomo della mia vita? Forse deve cercarlo in un resort, in una spa, ma Alberto, una 35enne che litiga con il proprio uomo perché i progetti estivi sono troppo differenti. Che cosa hai pensato leggendo questa lettera? Due persone molto diverse hanno cercato in qualche modo di trovare un passo insieme, no? Alternando i weekend, ma c'era qualche cosa secondo me già all'inizio che non andava tanto. Sai cosa penso io? Che probabilmente loro sono rimasti single in coppia, cioè loro avevano trovato probabilmente in questi 2 anni un'intesa di fondo, si sono proprio un po' spartiti le agende, si sono incastrati nel weekend l'uno dell'altra, ma fondamentalmente probabilmente hanno continuato a fare le loro belle vite uno per conto proprio, con dei momenti di contatto belli, caldi, intensi, divertenti, e finché questa cosa ha funzionato dopo un po', però probabilmente il gioco è un po' come un videogioco, bisogna passare al livello successivo e lì la modalità non funziona più. Una cosa che mi ha colpito di questa lettera però è come inizio, cioè non riesco a capire cosa gli uomini cercano in una donna. Io direi ad Ilaria che forse il punto di partenza è capire bene che cosa lei sta cercando in un uomo, perché è da lì. Però guarda che tra noi ragazze, metto nelle ragazze le virgolette, ce lo diciamo spesso, no? Che cosa vogliono di più? Ci sono delle donne, come si descrive Ilaria, belle, colte, intelligenti, con un ottimo lavoro, indipendenti, eppure forse non ci sono più gli uomini di una volta, non lo so. Allora, per capire meglio tutta la faccenda abbiamo chiamato ai nostri microfoni una scrittrice ironica, divertente, molto amata, che di amori femminili deve sapere molto, visto che ne ha raccontati, continua a raccontarne moltissimi nei suoi libri. È in linea con noi Federica Bosco. Buongiorno Federica. Ciao, buongiorno, ciao ragazzi. Grazie per essere con noi. Insomma, che idea ti sei fatta della lettera di Ilaria? Devo dire che sono molto d'accordo con Alberto, in effetti, perché anch'io ho pensato, lei ha fatto questa specie di elenco da bella statuina, no? Sono bella, sono brava, so cucinare. Ok, ma non è un catalogo dell'IKEA, voglio dire, ci saranno altre cose. No, ci prendiamo una mensola, Billy, ci saranno altre cose. E in effetti è anche interessante il discorso del singolo in coppia, che è una roba che va tantissimo di moda adesso, cioè è un momento storico veramente complicato per le relazioni, non arrendiamoci, però non è neanche così facile, cioè è molto facile funzionare bene sulle cose super superficiali, allora il weekend, le cene, gli amici, le cose, però appena c'è una cosa un pochino che bisogna un attimo stringere un ostacolo, allora ciao, fuggi generale. Questa è un po' la modalità attuale, ma dall'altra parte, al momento che tu vedi che uno è così, che in effetti non ha intenzione, allora prima finisce la relazione, meglio, cioè non aspetterei 2 anni, perché dopo 2 anni fa molto più male. Tu l'avresti troncata subito, insomma, avresti già subito annusato che non era quello giusto. Federica, Ilaria che ha alcune cose in comune con Brigitta, che è la protagonista di SMS, storie mostruosamente sbagliate. Che sì, è quasi uguale, sono sì, quasi coetanee, tanto per cominciare, stanno confrontandosi con un ennesimo fallimento amoroso. Ma Federica, perché secondo te la fragilità e l'incompiutezza amorosa oggi è proprio la cifra che segna e contraddistingue la vita sentimentale di molte donne? Guarda, di molte donne, ma anche di molti uomini alla fine, perché adesso gli uomini tendono a credere di poter avere 20 anni anche verso i 50, per cui... Secondo te solo ora o anche... è da un po' che hanno questa... Adesso è smaccata la faccenda, adesso colletto alzato, insomma macchina cabriolet per tutta la vita. Adesso è un po' più spacciata, diciamo che prima... E non sto parlando che prima era meglio, dopo era meglio. Insomma, per carità. Siamo il prodotto delle generazioni a venire, ovviamente prima era il dopoguerra, che ti posso parlare del tempo di mio nonno e mio padre, ovviamente non fa testo adesso, perché noi abbiamo avuto delle vite ma super comode, per cui perché uno deve andarsi a sbattere, lo capisco, però per tutto quello che riguarda il cuore, le emozioni, alla fine facci caso, tutti cercano più o meno le stesse cose, vogliamo tutti qualcuno a cui affidarci, qualcuno da amare, ma qualcuno a cui soprattutto poterci mostrare per quello che siamo, con le nostre debolezze e le nostre fragilità. Cosa succede? Che spesso lo cerchiamo nel posto sbagliato, lo vai a cercare sui social network, lo vai a cercare sui siti di incontri dove il tizio sta pasturando con te e altre 25, ma perché per forza è troppo divertente, è così, no? Certo. Abboccano tutte, come faccio io pescatore a dire no, pesco una carpa, poi smetto, ma no, sono pescatore, continuerò finché c'è pesci nel mare, e per cui bisogna anche un attimino capire, no, che cosa veramente vuoi. Se poi ti va bene uno così, che me lo vedo ogni tanto, però faccio la mia vita, allora non avrebbe scritto una lettera, ma quindi è anche importante, veramente la prima cosa è anche cominciare a diventare un pochino più esigenti, dire no, allora questa cosa proprio non mi va, non faccio, perché sai, noi donne un po' lo facciamo questa cosa, ci facciamo piacere delle situazioni che di base ci fanno storcere lo stomaco, questo è un po' perché prendiamo tempo, Federica, con l'idea, ecco, con l'idea poi magari di cambiare la situazione. Ma vorrei sentire Alberto come uomo e anche come psicoterapeuta, vorremmo tanto sentire il tuo parere, Alberto. Perché Ilaria, allora Federica un po' la, non dico bastonata, ma insomma un po' strapazzata. Tu come dalle un aiutino. Ma ti dirò che leggendo la lettera di Ilaria e leggendo anche il libro di Federica, quando racconta gli scruggimenti d'amore di Brigitta, a me sembra proprio che sono donne un po' a contatto anche non con dei veri uomini o degli uomini veri, ma un po' con dei non uomini, cioè uomini non molto individuati, che entrano in una storia come un aspetto collaterale, sì. Perché effettivamente nella lettera di Ilaria colpisce che poi lui alla fine quello che gli interessa davvero è farsi la vacanza sulla pista ciclabile dell'Olanda. Poi se lei vuole con tutte le, Fede, con tutte le piste ciclabili che ci sono anche da noi, dai, a Milano certo. Anche più certo. E credo che l'altro aspetto sia proprio un po' anche questo, che di nuovo viene raccontato bene da Federica nel suo romanzo, cioè il fatto che poi per perseguire un'idea, forse un ideale di amore, per stare in quella zona un po' del romanticismo, del sentirti condiviso in una storia, tu metti lo zoom o il focus della tua attenzione di soggetto d'amore solo su pochissime cose dell'altro, mentre costruire un amore, anche se non vogliamo essere drammatici come diceva Fossati, che spezza le vene delle mani, no, te ne fa un fare. Po' meno, però direi. Esige davvero un po' più di lavoro, un po' più di complessità, cioè ti accorgi a volte che vengono costruiti. Ma voglio chiederti una cosa, Alberto, quando queste storie d'amore di così di tristezza, anche di amore non corrisposto o di un amore non soddisfacente, entrano nella stanza dello psicoterapeuta, io vorrei essere una mosca, vorrei capire tu che cosa chiedi. Anche Federica, perché la rimette in un altro, ecco. Ma cosa pensi e cosa dice ai colleghi dopo? Mamma mia, c'è arrivata una oggi. Ma tutti a ridere a scena. Cioè, secondo me è importante cercare di capire non solo che cosa l'altro stava, che cosa tu stai cercando nell'altro, ma anche che cosa tu stai cercando di te stesso in questa storia. Perché ti puoi accomodare come se fosse una poltrona, ma dopo un po' sei stanco di stare seduto. Hai davvero bisogno di crescere dentro un amore. Allora, per me crescere vuol dire entrare in una zona complessa dove senti dei picchi incredibili, magari di meraviglia, ma a volte senti anche dei picchi incredibili di grande fatica, e non la può fare solo uno la fatica in amore, cioè bisogna entrare in conflitto, bisogna effettivamente, secondo me, litigare tanto in modo sano, chiaramente non in modo distruttivo, e creare quella zona dove pian piano l'amore è costruzione di sintonia e sincronia. Io sento quello che senti tu e lo sento più o meno allo stesso momento, ma non si parte anche quello a sentirlo più o meno nello stesso momento fa la differenza. Federica, tu che cosa ne pensi? Intanto che ascolterei Alberto per tutta la mia vita, proprio mi piace sentirlo parlare così saggio. Comunque sì, è vero, questa cosa è una negoziazione continua, il rapporto non è mai una cosa statica e piatta, non deve esserlo mai, non bisogna mai, neanche secondo me, e io non ci sono riuscita tante volte perché sono una turbolenta, andare troppo, cioè quando ti arrabbi dire quelle cose che poi sono difficilmente recuperabili, ecco, bisogna sempre stare un po' nei margini anche, e poi non buttarla tanto sulla tragedia, no? Alleggerire un po', perché noi diventiamo subito un po' drammatiche, invece lo sai, Federica, che noi ti amiamo, perché tu sei amata da tutte le donne, da tutte anche i tuoi lettori uomini, anche e soprattutto perché le tue storie, che sono scritte benissimo, aggiungono quel modo così unico, originale, che è la tua cifra, di prendere la vita, che è prendere la vita, adesso si potrebbe dire con un sorriso, ma non rende bene l'idea, perché proprio è un modo di essere anche un po' autoironici, a prendere un po' le distanze, è una forma di saggezza sorridente che a me piace molto. Il cercare di non prendersi troppo sul serio, che siamo in un'epoca che si prende esageratamente sul serio, però in fondo quando poi cioè, siamo noi, siamo fatti di carne, siamo pieni di debolezze, anche se siamo no, che, sempre a far credere, no, fai questi selfie che sembri sempre perfetto, cioè, siamo in un momento estremamente estetico, estremamente fragile, ma poi la realtà dei fatti è tutt'altra, siamo pieni di paura. E per cui è bene trovare qualcuno che questa paura la sappia accogliere, che se scappa allora non inseguiamolo e lasciamololo andare a fare il suo non so, giro in Olanda. Senti, ne abbiamo avute un po' per tutte, Alberto, per Ilaria e per il ciclista olandese. Che cosa tu ritorna allo psicoterapeuta sotto l'ombrellone? Ma direi che forse a Ilaria quest'estate consiglierei proprio di non avere l'ansia o la fretta di trovare un nuovo compagno e di approfittare anche della sua permanenza in questo resort ultra tranquillo per osservare altre coppie all'azione, per individuare in quel modo di stare dentro alla quotidianità di due persone che non conosci, quali sono i modi, gli stili, i comportamenti, il guardarsi, il parlare a tavola che lei un po' invidia e che vorrebbe magari un giorno poter vivere dentro una sua storia. Secondo me osservare tanto prima di entrare e probabilmente darglielo anche come consiglio poi quando entra in contatto con un uomo che potrebbe interessarle molto, stare in una zona di sospensione, cioè frequentarsi per un po', non buttarsi subito a capofitto perché tende poi altrimenti... Tenerli, Federica, un po' sulla corda. Sì. Anche mia nonna lo diceva sempre, donna di grandissima saggezza. Bisogna... Ecco, è vero, bisogna è tenerli benissimo. Un po' lì. Senti, un po' farli marinare. Ecco. Un po' farli marinare. Senti, Federica, ma le tue storie nascono da un'osservazione attenta delle storie che tu vedi intorno a te, storie che ti raccontano le amiche. Dove si trovano tutte? Se ti dicessi che è tutto autobiografico, dovrei rinchiudermi. No, ti manderei Alberto. Ti manderei Alberto e ti chiuderei per un mesetto con Alberto Pellai. Gli farei fare la piscina. Dunque, sì, osservo tanto, beh, sì, qualcosa comunque di mio sicuramente c'è, perché ho avuto insomma le mie relazioni, ormai da ridere, ci si ride tanto, ma all'epoca non ci ridevo proprio per niente, perché anch'io appunto me la prendevo moltissimo e poi per le persone sbagliate. Però ecco, le amiche, le cose che ascolti, che vedi, sono un'ispirazione pazzesca, cioè non finisci mai, no? È bello perché vedi proprio che alla fine, ma quanto ci fa correre l'amore alla fine, sempre questa cosa incredibile che ci toglie il fiato, che ci fa cambiare vita, e questa cosa sinceramente continua a sorprendermi ogni volta. Senti, perché Federica, ma prima di salutarti, tu scrivi con più facilità quando sei innamorata o quando invece dipende, no, guarda, secondo me quando sei innamorato sei un po' talmente sotto un effetto droga che non c'hai questi occhiali rosa che poi prima o poi vanno tolti, per cui è meglio di no. Si scrive meglio quando si è arrabbiati, ho notato, vengono fuori delle pagine molto intense e molto profonde e diciamo cerco di essere in fase abbastanza neutre, perché se ho dei picchi in un senso o nell'altro sono sempre un po' strane poi. Comunque ti devo dire che sei riuscita a prendere i momenti sempre giusti. Ricordo il titolo del tuo libro, SMS storie mostruosamente sbagliate, tutte queste S dovevi mettere, Federica. Fai un libro senza S. Grazie Federica Bosco. Grazie per essere stata con noi, buona giornata. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Quella per la persona no. Allora, abbiamo lasciato Ilaria nel suo resort in Sardegna, il fidanzato è andato a pedalare in Olanda, insomma separati, ma c'è un altro caso che ti vorrei sottoporre e che poniamo anche all'attenzione e al confronto dei nostri amici che ci stanno seguendo, magari andando in vacanza, in macchina, tornando. Questa è la prima estate in cui la nostra famiglia farà le vacanze da famiglia separata. Dopo 15 anni di matrimonio, infatti, la nostra coppia ha affrontato il doloroso percorso della separazione e questa estate, per la prima volta, i nostri due figli trascorreranno 10 giorni al mare con me e 10 in montagna con il papà. Mi chiedo se c'è un modo per evitare che soffrano e se c'è qualcosa che come mamma mi consigliate di fare per rendere queste vacanze meno tristi per tutti. Alberto, Cristina ha messo proprio il dito nella piaga. Ci scrive: sono delle vacanze, consigli per rendere le vacanze meno tristi, perché la separazione proprio è un evento di cui noi abbiamo parlato tante volte, che sconquassa la famiglia, divide i genitori dai figli, è uno tsunami emotivo, come tu l'hai descritto tante volte, e richiede sicuramente un certo modo, no, di affrontare le cose, un impegno un po' da parte di tutti, perché i bambini, che sono sicuramente in questa condizione i più fragili, non ne paghino troppo le spese. Alberto, che consigli ti senti di suggerire a Cristina? Ma direi che intanto proprio le vacanze, le prime vacanze dopo una separazione sono devastanti. Sì, sono proprio, dobbiamo un po' mettere in gioco che la tristezza c'è. E lo dico a Cristina proprio per non farle fare l'errore di dire: non dobbiamo sentirci tristi, dobbiamo far finta che non è successo niente. Io direi che le vacanze rimangono vacanze, i bambini hanno straordinaria flessibilità e competenza per potersi divertire, vedere tutto il bello che c'è in una vacanza, ma noi come genitori possiamo anche a volte intercettare quei momenti di nostalgia, di tristezza, oppure sentire che il nostro bambino probabilmente ci dirà tante volte: ti ricordi mamma quando col papà? E quindi ci starà proprio richiamando un po' a aiutarlo a metabolizzare la fatica che sta facendo in un cambio di prospettiva di esistenza così evidente e così intensa. Quindi direi, Parli naturalmente di bambini, l'età del bambino fa la differenza. Fa molto la differenza. E anche il momento in cui si è arrivata a questa decisione, se chiude un momento molto burrascoso oppure se a questa decisione si è arrivati in modo, direi, quasi più consensuale. Insomma, è stata una decisione, non si è mai preparati, certo, per questo momento, ma se i genitori hanno lavorato prima. Hanno lavorato prima, infatti non dobbiamo dimenticare che il bambino farà la vacanza con i genitori separati, ma è stato preparato a quella, certo, separazione, non è il primo momento in cui scopre quello che sta succedendo nella sua famiglia. Allora, Alberto, noi ci fermiamo qua, facciamo una piccola pausa, poi torniamo insieme, perché io vorrei chiederti che cosa significa in concreto dare un senso di sicurezza e protezione ai figli in un passaggio così faticoso e doloroso come una separazione. Quindi Cuore Denari è una trasmissione che passa dalla teoria alla pratica, vuole essere concreta, quindi una sorta di guida per evitare almeno di fare gli errori più grossolani, per cercare di, e poi naturalmente il lavoro va fatto e si continua a fare, perché come spesso dici tu, genitori si resta per tutta la vita, tutta la vita, indipendentemente da una separazione. Andiamo a fare una piccola pausa, poi torniamo insieme e continuiamo a parlare del caso di Cristina, la prima vacanza da separati. Cuore e Denari. Ecco, veloci siamo tornati insieme, siete a Cuore Denari insieme a me e Alberto Pellaio, sono Nicoletta Carbone, ci stiamo occupando del caso di oggi. È il caso di Cristina che ci racconta le difficoltà della prima estate in cui la famiglia farà le vacanze da famiglia separata. Alberto, prima della pausa ti ho chiesto concretamente che cosa vuol dire dare e come si può dare un senso di sicurezza e protezione ai figli in un passaggio così difficile. Ma credo che poi il segreto sia sempre quello, far sentire ai figli che mamma e papà si sono separati, si sono lasciati, ma che i figli non sono stati lasciati da mamma e papà. Quindi se io sono la mamma e ho con me il mio bambino, posso proprio fargli sentire una continuità nel mm-hmm. progetto, posso metterlo in contatto con il papà tutte le sere, facilitare la comunicazione, posso io fargli capire che sto raccontando al papà, che sto mandando foto attraverso WhatsApp di tutto quello che stiamo facendo. E la stessa cosa farà il papà quando poi... Bravo, è proprio ai papà che mi voglio rivolgere, perché ci sono anche tanti papà all'ascolto. Consigli specifici per i papà che quest'estate affronteranno un passaggio impegnativo? Eh beh, i papà spesso in un passaggio del genere devono proprio a volte reinventarsi una relazione con i loro bambini, perché spesso si mancano, sono stati un po' periferici. Sappiate che lo racconta la storia di moltissimi papà separati, a volte nella separazione coltivare bene la dimensione della paternità permette proprio di ricostruire in modo molto forte la propria identità dopo magari il fallimento della separazione. Sì, riscoprire proprio delle parti di sé. E a volte i rapporti genitore figlio, papà figlio in particolare, migliorano davvero in modo molto molto significativo dopo una separazione, perché il papà si attiva di più, si rimette in gioco e anche il figlio scopre aspetti del papà che probabilmente in non quella zona immaginato. Affaticata della sua coppia genitoriale non aveva visto. Insomma, ci sono poi delle belle storie anche nel dolore, nella difficoltà. E a proposito di papà separati, noi abbiamo in linea una scrittrice che è davvero amatissima per la sua grande capacità di raccontare in modo empatico e anche emozionante storie che, come si dice, storie che lasciano il segno, lasciano tatuaggi emotivi, vero? Così tu descrivi. Ve la introduciamo con un breve estratto del suo nuovo romanzo. Mi chiamo Margherita e sono appena rientrata a vivere in Italia. Prima stavo in Danimarca con mia madre, che però è morta. Allora sono venuta qua per vivere con mio padre, quello italiano. Chi sono? Non lo so. O almeno non ci capisco molto. Quello che so di certo è che mi piace suonare il violino. Quello che più mi piace del violino? Ha bisogno di cure costanti e mi chiede di non mollare mai. E poi la musica è fatta anche di silenzi e di vuoti. E io amo il silenzio. Non ci rendiamo conto delle centinaia di cose che riusciamo a fare senza nessuna fatica. Respiriamo, ragioniamo e camminiamo. Ma se un giorno la cosa che hai desiderato di più al mondo ti viene tolta, anche respirare, ragionare e camminare da quel momento diventa improvvisamente impossibile. Erano le parole di Margherita e di suo padre, che sono i due protagonisti di Niente come te di Sara Rattaro, che abbiamo in linea con noi. Ciao Sara! Ciao a tutti! Complimenti! Grazie Brava mille. Sara! Il tuo libro ha vinto il premio Bancarella 2015 e lasciatelo dire, non sarò certo la prima, è un libro commovente ed emozionante fino alle lacrime, perché racconta proprio questa bella storia di ricongiunzione genitori-figli dopo una separazione da anni. Un romanzo, credo, che per molti genitori potrebbe essere una sorta di guida, no? Per riflettere sulla propria situazione di genitore separato. Sarebbe bello, ecco, sì, Niente come te, intanto è una storia vera, è uno di quei casi di allontanamento di un figlio da uno dei due genitori in seguito a, diciamo, un trasferimento all'estero dell'altro genitore, più o meno, diciamo, in modo così concordato serenamente, ecco, nel mio caso addirittura è una sorta di rapimento della figlia quando è molto piccola, e quando poi dopo tanti anni la figlia e il padre si trovano a ricongiungersi, ovviamente c'è tanto da ricostruire, se non praticamente tutto. E che sia una guida non lo so, perché ovviamente non mi posso permettere tanto, però il messaggio che mando e che spero possa arrivare attraverso il libro è proprio quello di concentrarsi sempre sul fatto che tutte le scelte che vengono fatte per i figli o con i figli o sui figli adesso hanno delle conseguenze che arriveranno dopo molto tempo, quindi bisogna sempre riflettere molto bene prima permessi di fare delle cose che magari possono essere molto forti, spesso per fare male a qualcun altro rischiamo di fare male soprattutto ai nostri figli. Alberto, questo è un tema a te molto caro, su cui hai lavorato, hai scritto molto, fai i circoli del papà, incontri le famiglie, insomma è proprio il, come no, è un tuo campo di azione, di studio, di intervento. Sì, e devo dire che quello che ha detto Sara dovrebbe davvero tatuarcelo della mente nel cuore quando siamo genitori, perché in generale già quando sei genitore in una coppia che non si separa, devi fare, oltre a un gioie enormi, hai davvero da fare tante fatiche. Io tante volte quando parlo ai genitori che si stanno separando e che magari chiedono aiuto a me, dico è un passaggio che affrontano in tantissimi, sappiate che i vostri figli riusciranno a gestirlo, a metabolizzarlo, a superarlo tanto bene quanto voi saprete fare il doppio della fatica che avete fatto come genitori in coppia, perché separarsi vuol proprio dire che per aumentare il senso di amore e protezione che un figlio riceve dai suoi genitori, vede proprio i genitori in una tensione incredibile, molto attenti a sintonizzarsi in una zona in cui invece hanno distrutto la loro storia affettiva. Sara, nel libro tu hai fatto un'operazione molto complessa per una scrittrice, no? Mi sembra, perché ti sei immedesimata con il padre, racconti tutta la storia da un punto di vista maschile. Quanto è stato difficile muoverti in questo modo? Guarda, la difficoltà non è stata dal punto di vista tecnico. No, immagino. Perché la storia c'era, cioè il papà c'era, esisteva. Sì. Quindi io ho incontrato questa persona che mi ha empaticamente trasferito tutto. E io forse ho fatto quello che dovevo fare, cioè lasciare che questa storia mi prendesse a schiaffi, no? Nel bene e nel male, e trasferirla sulla carta. Forse è stato più complicato dal punto di vista tecnico raccontare Margherita, perché l'adolescenza, la ragazzina in una situazione così complicata, che sia credibile, che sia in qualche modo diciamo forte, che sia un messaggio di positività, che sia straordinaria nella sua confusione, questa sicuramente è stata la parte in cui mi sono dovuta documentare il più possibile, quindi mi sono affidata a tutti gli esperti del settore e poi ho fermato tutti gli adolescenti che potevo. Li hai intercettati. Senti, ma cosa ti scrivono i tuoi lettori? Ci sono delle mail, dei messaggi che ti sono arrivati e ti colpiscono, non solo quelli per dire che sei stata bravissima, che hanno fatto il tifo per te, che sono contenti del premio Bancarella che hai vinto, ma proprio sei diventato un po' parte di loro, perché con lo scrittore poi ci si immedesima e si crea poi una relazione inevitabile, no? Sì, assolutamente, io ricevo tantissimi messaggi soprattutto dalle genitori, madri e padri che siano, che vivono situazioni o simili o uguali a quella che io racconto, perché sono tantissimi casi. L'Italia è uno dei paesi più diciamo colpiti, il paese a cui vengono sottratti diciamo più bambini, e la cosa che mi colpisce di più è che il loro ringraziamento tra virgolette è proprio nel manifestare il fatto che secondo loro li ho aiutati a lasciare una traccia, perché uno dei grossi problemi che hanno questi genitori che vengono allontanati dai figli in un modo così diciamo ingiustificato e senza diciamo poter far quasi nulla, è proprio il dover dimostrare al mondo che però i loro figli li amavano, cioè che non li sono stati portati via perché loro non li volevano più, perché poi si mette sempre in discussione il genitore, no? Certo. Per cui viene portato via un figlio, ma chissà cosa ha combinato quello o quella per meritarsi che l'altro scappi, ecco. Non è sempre così, anzi nella maggior parte non è così, e quindi questi genitori mi ringraziano per dire ecco vedi anch'io voglio bene, anch'io vorrei che ritornassi, anch'io avevo voglia soltanto di fare il padre, soltanto di fare la madre, e questa cosa è quella che mi colpisce di tutto, perché credo che perdere un figlio sapendo dov'è non poterlo crescere, non poter avere un contatto con lui o con lei, credo che sia uno dei dolori, una violenza sì, inaudita, sì, è proprio qualcosa di lacerante. Comunque l'hai scritta talmente bene questa storia che in realtà piace a tutti, non solo ai genitori o alle famiglie, ed è scritta talmente bene che tu l'hai combinata grossa, perché sei stata tra i finalisti del premio Bancarella, dopodiché c'è stata la cerimonia di proclamazione del vincitore, che è molto emozionante perché estraggono una scheda per volta e colpo di scena, non so se gli ascoltatori lo sanno, tu sei arrivata pari merito alla penultima scheda con la tua concorrente di premio Simona Sparaco, eravate a 77 punti tutte e due. A questo punto aprono l'ultima scheda e potrebbe essere che quella scheda lì dice il nome di un altro degli autori in gara e quindi loro avrebbero vinto ex aequo. Oppure dice uno dei due nomi e hanno detto Sara Rattaro. Cos'è successo in quel momento? Ma credo di essere riuscita a malapena a portare a casa le coronarie. Perché è stato un momento di emozione pazzesca. Io poi la premiazione è andata proprio così. In particolare io durante tutta la premiazione in realtà ero un po' più indietro, quindi sono partita un po' diesel e quindi non avevo un po' messo i remi in barca, diciamo, psicologicamente, quindi mi ero anche tranquillizzata e mi sono goduta la serata. E gli ultimi 5 minuti invece sono state veramente da capiopalma, e con tutta che forse, io lo dico sempre ma lo dico davvero con il cuore, con grande sincerità, non mi sarebbe dispiaciuto nel sequo con Simona, perché abbiamo due voci simili, lei è una grandissima scrittrice, mi sarebbe piaciuto andare in giro per l'Italia a dividerci il premio, ecco, credo che anche lei l'avrebbe meritato, del resto i voti sono stati identici, quindi insomma due libri che sono stati premiati entrambi, e però insomma è andata così. Comunque le coronarie le hai portate a casa, sì, meno male. Sono contenta anche di aver vinto con questo libro più che altri, proprio per il messaggio forte che racconta, ecco. Senti, noi vogliamo salutarti, intanto sì. ti saluto, ma tu stai ascolta anche tu, perché sì. Ti salutiamo facendoci il regalo di ascoltare un brevissimo estratto del tuo romanzo Niente sì, come te, bello. Perché sentirlo leggere fa effetto anche a te. Ciao sì, Sara, complimenti. Grazie mille, un abbraccio, buona serata a tutti, ciao. Non esiste un luogo dove ricoverare i sentimenti smarriti, come per gli oggetti persi sui treni o sugli aerei. Ma è il nostro costante desiderio di trovarli, a tenerci vivi. Le cose più preziose, l'abbraccio di un padre, l'amore di una madre e la presenza di un amico, si possiedono senza bisogno di cercarle. Niente come te di Sara Rattaro, l'abbiamo sentito un breve estratto, l'abbiamo avuto come nostro ospite, speriamo che torni presto a trovarci. Nel frattempo noi facciamo un'altra pausa perché andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Torniamo insieme per l'ultima parte di Cuore e Denari tra poco. Cuore e Denari. Ultima parte di Cuore Denari insieme ad Alberto Pellai, medico ricercatore, psicoterapeuta e scrittore, compagno di Ombrellone. Direi che chiudiamo in bellezza. Sì, oggi abbiamo fatto leggere i nostri ascoltatori perché abbiamo parlato di due bellissimi libri e allora alla fine della trasmissione utilizziamo un libro come pretesto per far vedere invece degli ottimi film. E infatti allora l'ospite che vogliamo presentarvi è niente meno che un filosofo da cui vogliamo essere aiutati perché ci faccia un po' coaching con il cinema. Non capite immagino che cosa intendiamo, e allora ve lo facciamo spiegare direttamente da lui. Saluto il professor Roberto Mordacci, ordinario di filosofia morale all'Università Vita e Salute del San Raffaele di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Professore, lei è filosofo e autore sì, di un libro che ci guiderà in questa ultima parte di Cuore Denari. Si intitola Il cinema con il filosofo. Lei è in mezzo alla strada, professore, perché sa che i filosofi hanno un po' la testa per aria, eh? È bella, sono sicuro? In automobile. Va bene. Ma sono fermo. Va bene. Posso parlare. Ok, no, perché non volevo che mi stirassero l'ospite. Allora, autore Al cinema con il filosofo, imparare ad amare il cinema, che è pubblicato da Mondadori. Ma, professore, come le è venuta questa idea? Ma è un'idea nata dal fatto che la passione per il cinema mi divora da tempo e contestualmente io quando vado al cinema ho la tendenza a utilizzare tutti gli strumenti del mio percorso culturale per capire, per andare a fondo e per lasciarmi suggerire dal film qualcosa di interessante per il mio pensiero. questa doppia direzione, cioè appunto leggere il film con la filosofia e lasciar stimolare la filosofia dal cinema, si è rivelata molto fruttuosa. Ne ho ricavato molte idee, molti spunti e cose che entrano nella mia produzione di pensiero e nella mia esistenza. Mm-hmm. E allora mi sono detto, perché non condividerla? Diciamo, questo è stato. Ma mi sembra che lei abbia avuto un'ottima idea. Ma mi spiega concretamente quando un film, come lei guarda un film e come un film la ispira, la guida, le fa venire delle idee, le fa, no, mette in moto tutta questa produzione? Allora, ci sono vari modi in cui... Perché così impariamo anche noi, cioè non diventeremo filosofi, ma sicuramente il cinema ci darà una mano, almeno a vivere un po' meglio, forse. Allora, ma infatti il tema è che non bisogna essere filosofi per leggere filosoficamente un film, poi anche essere filosofi non è una competenza tecnica, ci sono alcune conoscenze che è bene avere, che è la tradizione di pensiero, ma questa fa parte della cultura generale. Allora, qui che cosa c'è? Che ci sono momenti in cui il film ci suggerisce, per esempio, attraverso le immagini, una riflessione, un'idea, una percezione del rapporto che c'è fra immagine e realtà. Questo è già un discorso filosofico. Ci sono alcuni filosofi, tra cui Gilles Deleuze, per esempio, che ha messo a tema questo fatto, cioè che cos'è cinema? Dice Deleuze, è immagine e movimento, ma questo non è banale, perché in realtà è un'immagine proiettata, non si sa bene che cosa sia quella cosa sullo schermo, e soprattutto la cosa che è in immagine, cioè la realtà. Dove sta? Che rapporto ha? Allora, tutto questo fa sì che noi attraverso il cinema scopriamo lati della realtà che non immaginavamo di vedere, che non sapevamo di vedere. Allora, questo è un modo che appunto il film suggerisce cose della realtà che altrimenti con gli occhi non avrei visto altrettanto chiaramente, e la filosofia, il filosofo dice, caspita, ma queste sono cose della realtà che appunto solo il cinema mi fa vedere. Quindi allora ci mette un altro paio d'occhiali. Sì. Vero? Sì, che non sono sempre quelli del regista o quelli che il regista vorrebbe farci indossare. Questa è un'altra cosa interessante. Spesso, io ho scoperto nella mia esperienza, l'immagine ha una potenza così grande che non è che noi subiamo il messaggio intellettuale di un regista che ha un'ideologia e ce la vuole propinare per immagini, narrazione e parole. No, è che proprio l'immagine desta in noi pensieri che il regista manco immaginava e che magari non corrispondono proprio al suo messaggio, ma per noi valgono. Allora, qualche volta questo avviene naturalmente. Se uno prende alla filosofia un po' di strumenti, come appunto l'idea di cos'è un'immagine o del perché la realtà apparendoci in quel modo ci dice cose diverse, ha un modo di assorbire, amare e fruire del film più pieno. Alberto, ma il cinema, il film, entra anche nella stanza dello psicoterapeuta, perché tu suggerisci tante volte, ne abbiamo parlato in trasmissione. Sì, è proprio un lavoro quasi simile, nel senso che poi il film è sempre la narrazione di una storia di vita o di storie di vita o di problemi che possiamo incontrare nella vita, e ci permette perciò di entrare in una zona di flusso mentale dove, guardando le storie di un altro, possiamo sentire risonanze molto potenti sulla nostra storia. Ed è per questo che abbiamo il professor Mordace in linea con noi. Abbiamo pensato a voi ascoltatori alla fine della settimana di proporre 3 film tra quelli che lui ha selezionato nel suo libro, e gli vogliamo chiedere di metterci addosso il paio d'occhiali del filosofo, cioè se ce lo andiamo a cercare questo film su DVD oppure su una televisione. Le ha scelti Alberto, professor Mordaci, quindi a lui tutti gli onori. Adesso noi la interroghiamo noi, professore. Ci sta? Allora, è una sorta di gioco, vi faremo ascoltare un breve estratto dal trailer di ciascuno di questi 3 film e il professore, brevemente, 2 o 3 frasi, ci aiuta a capire perché ci farebbe bene vedere questo film oppure come guardarlo, con che paio di occhiali guardarlo. Partiamo dal primo. Ehi, basta, rimettete la barriera. Vi va di spassarvela? Sì! Professor Mordaci, Boyhood è un film che lei ha così, che abbiamo rubato dal suo libro, selezionato tra quelli che lei aveva scelto. Perché, soprattutto per chi varrebbe la pena recuperarne una visione estiva? Ma secondo me è un po' per tutti. In realtà la storia è quella di un ragazzino che viene seguito dagli 8 ai 20 anni, quindi è quello che sarebbe in letteratura un Bildungsroman, un romanzo di formazione. Solo che qui la cosa interessante è che c'è tutta la famiglia, cioè, e il film è stato realizzato in 12 anni, come si sa, no? Cioè è stato realizzato seguendo il ragazzino, cioè l'attore che lo interpretava, lungo questa sua crescita. Harold Cortan è cresciuto con questo film, interpretando Mason Evans, e insieme con lui Patricia Arquette e Ethan Hawke facevano i genitori, e le loro vicende si sono intrecciate con quelle del ragazzino. Secondo me qui la cosa interessante è, uno, che Linklater, con questo esperimento, che è il rovescio dell'esperimento che aveva fatto anni fa, fotografando a 10 anni di distanza le vite dei suoi personaggi in 3 film diversi, qui invece lo segue, no? È longitudinale. E cosa succede? Che noi capiamo immediatamente che lui da un lato racconta l'America di questi ultimi 12 anni, quindi da dopo le torri, da dopo quella tragedia, l'evoluzione di una certa esperienza di vita americana. Ma poi c'è l'esperienza di diventare un giovane adulto, un più che un adolescente, di uscire dall'adolescenza e entrare nella vita vera, di darsi un'identità. E l'interessante di questo esperimento è che, essendo lo stesso attore, lo stesso ragazzo, noi vediamo la formazione dell'identità di Mason Evans, la vediamo nel corpo che è lo stesso corpo reale. E qui dicevo, c'è quel discorso che facevo prima, no? Cioè la realtà condensata in 2 ore di film di 12 anni di crescita di una persona che non è che è crescita corporea, e questo ci dà il senso della crescita interiore. Lo vediamo proprio, sì, fisicamente. Anche io trovo che quello sia l'aspetto veramente affascinante di questo film, così come affascinante è il prossimo film con cui la sfidiamo. Voglio imparare tutto di tutto. Mi piace come guardi il mondo. Quando sarai pronto per una donna? Che vuoi dire? Ho letto nelle tue mail che ti sei appena separato. Sei una bella ficcanaso. Com'era essere sposati? C'è qualcosa che ti fa stare bene quando condividi la vita con qualcuno. Come si condivide la vita con qualcuno? Eccola qua, lei, la che abbiamo scelto, che Alberto Pellai ha scelto. Purtroppo abbiamo poco tempo per parlare di questo film davvero particolare, un film che racconta una realtà avveniristica, ma nemmeno troppo lontana. Sì, l'idea è che un sistema operativo che diventa una coscienza vera e propria interagisce e evolve. Allora, l'esperimento mentale, interessante, questo è un altro modo di fare filosofia con i film, fare un esperimento, sospendere alcuni elementi di realtà e immaginare la realtà come sarebbe la realtà cambiando un piccolo pezzetto. Il piccolo pezzetto è, immaginiamo che un sistema operativo sia una coscienza, interagisca, evolva e risponda a tono. In questo film la voce qui è Michaela Ramazzotti, nella versione inglese Scarlett Johansson, con il suo proprietario che intreccia con lei una storia d'amore, ha questa evoluzione rapidissima, una coscienza che non ha un corpo, e qui torna al tema del corpo, evolve molto più rapidamente di chi un corpo ce l'ha e quindi è un limite. Non solo, non ha limiti né di tempo né di spazio, quindi Scarlett Johansson, ovvero il sistema operativo che si chiama Samantha, brevemente comincia a interagire con molte più persone e la storia d'amore non può continuare, non perché manca il corpo, cioè manca il contatto fisico. Paradossalmente, in realtà è l'assenza del corpo, è quello che in lei moltiplica la possibilità delle esperienze, ed è interessantissimo immaginare che cosa accade quando la velocità della coscienza si moltiplica all'infinito. L'esito è che una coscienza così fugge dal mondo, fugge dalla realtà. Professore, la porteremo al cinema con noi, andremo al cinema insieme. E vi ricordo il titolo del libro del professor Roberto Mordacci, Al cinema con il filosofo, imparare ad amare il cinema, pubblicato da Mondadori. Grazie professor Mordacci per essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci. Buona giornata. Alberto, noi ci salutiamo. Buon weekend. Tornerai a trovarci presto, a Cuore Denari. Intanto buone vacanze a tutti per chi le deve fare ancora. E noi ci sentiamo come sempre lunedì a partire dalle 11. Vi auguro un buon weekend. Un saluto da Nicoletta Carbone.